Il punto di Stefano Folli. Nel centrodestra si guadagna tempo, ma l'epilogo è vicino, inevitabile, ed è comunque drammatico, nel senso che cambierà la geografia politica. O Berlusconi accetta di uscire dal Parlamento fra pochi giorni, senza pretendere per questo di mettere in crisi il governo, e consegna di fatto la leadership ad Alfano, fautore di questa linea, oppure ci sarà la scissione e il passaggio all'opposizione dei berlusconiani, mentre il gruppo dei moderati si staccherà per sostenere Enrico Letta in una specie di nuovo centro-sinistra. In entrambi i casi non ci sarà da aspettare molto per vedere la fine del film. Entro novembre il Senato si pronuncerà sulla decadenza e sarà, quale che sia il giudizio di merito su questa vicenda che riguarda il protagonista della politica italiana nell'ultimo ventennio, uno di quei passaggi della nostra storia che si segnano sul calendario e si ricordano nei libri di storia.